Seguono Radio Asilo. La trasmissione questa sera, diciamo, è rondata per la manifestazione di sabato 30 ottobre a Roma. Alcune indicazioni per chi vuole partecipare da Salerno: partirà sabato e 30 il pullman alle 8:30, appuntamento in Piazza della Concordia, e si stanno raccogliendo le adesioni e, diciamo, vi sono i riferimenti sia dei Cobas che di Salerno, che di vari compagni, sia dell'università che di altri compagni che, a cui poter fare riferimento. È chiaro. Allora, prima di entrare, diciamo, nell'ambito della mobilitazione contro gli incidenti a Roma, è opportuno, visto che noi siamo in questa città, a Salerno, fare un po' una esamina dei fatti che stanno coinvolgendo la nostra città. È chiaro che le tematiche sono tantissime. Allora, è normale che, visto che noi siamo in questa città, Salerno, come ben sapete, allora, uscita alla ribalta a livello nazionale, diciamo, di quel che viene chiamato il sistema Salerno, ovvero diciamo, l'intreccio tra i voti di scambio, gestione della politica e forme cooperative. Chiaro che noi come dire, non possiamo entrare in ambito di questioni giudiziarie, però la questione è strettamente di carattere politico. Noi più volte, cioè questo è anche per dire, è chiaro perché se uno legge, sente e vede delle trasmissioni legate a questo sistema di De Luca, diciamo, come dominus diciamo, di tutto l'affare della politica a Salerno, è chiaro che qualche compagno che sta fuori dalla città può pensare: ma come in questa città a Salerno ci sta tutta questa questione, tutte queste problematiche e non c'è stato un minimo d'opposizione. E il problema è invece tutto il contrario, sia come centro sociale, come movimenti di lotta per il lavoro, che come diciamo, impegno sindacale di quello pulito e onesto, più volte abbiamo determinato forme di mobilitazione, denunce, diciamo, al di là delle vertenze per il lavoro, insomma, fino a, diciamo, pure prima della pandemia abbiamo denunciato diciamo, il clima politico che ha posto in questa città, diciamo, una gestione politica. Come dire, dinastica, ormai De Luca è entrato nel trentennio di potere politico. Chiaro, il problema non è di carattere giudiziario, il problema è di carattere politico, perché noi sappiamo bene, con tutte le trasformazioni che ci sono state nella cosa pubblica, nel pubblico impiego, come nella sanità, quindi anche tutti i processi di privatizzazione, di finanziarizzazione, diciamo, di quel che è, diciamo, deve essere la gestione della cosa pubblica, è un fatto, come devo dire, che deve, che pone concretamente il problema del neoliberismo applicato al territorio. Noi dal 93, da quando si è, diciamo, insediato il potere di Lucchiano, noi abbiamo sempre, come sia come asilo politico che come vari comitati, in termini di autonomia politica, abbiamo sempre diciamo, cercato di contrastare le trasformazioni neoliberiste che dalla questione urbanistica alla questione della cosa pubblica, ecco, stanno caratterizzando la nostra città. Chiaro che noi abbiamo avuto sempre un giudizio politico, perché ora in questa città, che abbiamo fatto pure proprio il tasso di plebeismo di questa città, nella città, come devo dire, si parla solo di questo. Ci sta chi tifa, ci stanno le varie tifoserie, un altro poco nessuno ha votato Vincenzo De Luca, nessuno ha votato l'attuale sindaco Napoli. In questa città cominciano un altro poco il toto arresto, il toto, come devo dire, il toto arresto di Vincenzo De Luca, cioè, la solita cosa. Noi spesso abbiamo denunciato questo tasso di plebeismo, che ricordiamo, diciamo, è stato permesso grazie all'assenza di una sinistra, sia essa istituzionale, sia essa, come devo dire, anche di carattere politico, che è, diciamo, l'assenza di qualsiasi forma anche di opposizione e di ignazione. Tranne appunto i movimenti di lotta per il lavoro, asilo politico e le rare espressioni di sindacalismo onesto. Però, ecco, nell'ultimo quinquennio, noi l'abbiamo già detto in altre, sia scritto che per radio, abbiamo denunciato come proprio in quest'ultimo quinquennio si sono accelerate delle forme di privatizzazione. E quando noi, ecco, alla questione fino a quando non c'è stata la pandemia, il lockdown e via dicendo, oppure quei pochi momenti di libertà durante il lockdown, noi come compagni, anche come rete per il lavoro e la precarietà, abbiamo sempre denunciato un sistema politico che fa sì che la nostra città sia ai primissimi posti per il fenomeno migratorio, ai primissimi posti per le peggiori condizioni della qualità della vita, ai primissimi posti per la cementificazione, per diciamo lo sviluppo urbanistico privatista. Però il problema qua non è la questione che De Luca è cattivo o De Luca è buono, il problema è che questo, diciamo, è in linea anche con la politica di Draghi, eterna precarizzazione della gente, ponendola sotto ricatto e mantenimento di uno status quo che è anche permesso, ecco, anche da un punto di vista istituzionale. Noi abbiamo avuto in questi ultimi 5 anni, c'è stata la presenza di un consigliere di opposizione di sinistra che cioè, non risulta essere proprio mai entrato in ballo, così come anche cioè, non aver detto neanche una minima parola sulla trasformazione selvaggia privatistica sia del comune, sia della cosa pubblica del comune che della sanità. Neanche nei luoghi istituzionali, quindi il problema, diciamo, è chi gli ha permesso in tutti questi decenni, diciamo, il mantenimento di una gestione politica. Ricordiamo che, De Luca, noi l'abbiamo sempre, diciamo, considerato un antesignano della privatizzazione e del neoliberismo applicato al territorio, e tanto è vero che è ben voluto, è ben visto e anche corteggiato dalle forze politiche sia di destra, che non ne parliamo proprio della direzione politica del PD. Allora, tanto è vero che anche rispetto a quest'ultima vicenda che ha visto coinvolto gli arresti di un presidente di varie cooperative sociali, e ci dispiace per le 200 operai di queste cooperative che rischiano di rimanere senza una lira, già erano mal pagati, già erano sottoposti a ritmi lavorativi di schiavi per supplire che cosa? Ciò che la mancanza dei servizi operai del comune determinava. Allora, questa è una cosa che ci dispiace tanto, però è arrivato anche il momento per loro che si cominciano a porre il problema che, ecco, si possa rilanciare la ripubblicizzazione dei servizi. Nel nostro comune non solo si chiude un ufficio, non solo non abbiamo più settori operai che diciamo dal giardinaggio, nettezza urbana, igiene urbana, mantenimento del verde, la pulizia delle caditoie, delle fogne, manutenzione stradale, quindi ci sta un fabbisogno di personale, di operai generici, diciamo, in cui si aggira intorno a migliaia di persone. Se noi vediamo che siamo in una città che siamo ridotti a 120, ne più di, neanche neanche 125.000 abitanti, con un alto tasso di migrazione verso il nord, compresi molti compagni che sono costretti ad emigrare per vivere, e che in questa città è una città di vecchi, di bambini, di rincoglioniti, delinquenti, criminali e malandrini, ecco, più che criminali, malandrini e raccomandati. Questa è una città che si basa sull'estetica, sull'effimero, dove vediamo che si sviluppano soltanto un'edilizia privata, sorgono grattacieli e centri commerciali che già falliti, però ecco, si riproducono a macchia d'olio una trasformazione urbanistica privatista, proprio come edilizia privata, e nessuno si indigna, a partire da quello che era stato eletto per fare opposizione, che dopo aver fatto il suo compito, aver distrutto anche una forma di interesse, di aggregazione di una sinistra, anche di tanti compagni, non ha fatto altro che buttare nel cesso, scusatemi il termine, tutto ciò che si era determinato. Ma la cosa che ci, come devo dire, quindi ecco, parlare di questo è importante, perché appunto molti compagni potrebbero dire: ma in questa città ci sono dei compagni? E i compagni ci sono, è chiaro che fortunatamente le elezioni sono alle spalle, da maggio fino ad ottobre sono passati più di 6 mesi, insomma finalmente le elezioni sono, sperando che anche gli ultimi avvisaglie di imbrogli elettorali, che forse diciamo ci sta anche l'incubo che si possa ritornare a votare un'altra volta, e in un contesto in cui la destra appare quella che difende le libertà costituzionali, ma questo poi alla fine non è soltanto per ciò che riguarda la Salerno, ma è quel che è, noi stiamo assistendo dalla Meloni a Forza Nuova eccetera eccetera, sono diventati loro i difensori delle libertà della Costituzione italiana, e quindi stiamo vivendo un periodo di confusione, e forse la mobilitazione contro i C20 a Roma potrebbe essere magari l'inizio, come devo dire, di una rimessa diciamo in un di incanalare le rabbie che si sono, che diciamo in tutte le città si stanno esprimendo, pure attraverso Novax eccetera eccetera, ma riportare tutto in un contesto in cui diciamo il conflitto sociale ponga molte chiarezze, ed è fondamentale, ed è fondamentale anche perché diciamo noi non dobbiamo dimenticare mai che abbiamo avuto la pandemia, il lockdown, e in tutto questo contesto, in questo arco temporale diciamo sono usciti alla ribalta anche soggetti politici culturali nuovi, dalle mamme, la questione, i bambini, le famiglie, forme di lavoratori dei lavoratori dei service, i lavoratori dello spettacolo, tante quelle categorie umane che magari fino al periodo pre-pandemia, come devo dire, non rientravano in un concetto di priorità di impegno politico, e queste categorie invece sono diventati nuovi protagonisti. Non dimentichiamo appunto che la pandemia sta determinando nuovi scenari, nuove forme di umanità che si vuol rendere protagonista, anche a partire da alcune forme di mobilitazione che ci stanno rispetto alla questione dei Green Pass, su cui si è aperto un dibattito. Però ecco, l'appello che facciamo ai compagni è quello di non cadere, perché ecco, il Green Pass sta diventando un'arma di distrazione di massa rispetto a tutto ciò invece che di grave sta succedendo nel nostro paese a livello internazionale. Ecco perché è importante affrontare in modo molto lucido, laico, anche queste tematiche che, o di questa umanità che volendo o nolendo stanno nelle piazze da un bel po' di tempo e continuano in modo ostinato a stare nelle piazze, ed è normale che all'interno di questa situazione, di queste piazze, ci sia un'umanità variegata, ma anche la questione dei portuali di Trieste, i portuali di Genova, di Ancona, così come anche il presidio che c'è stato all'interno nella stessa città di Trieste, così come tante altre mobilitazioni che Sassuolo dei Gribassa, altre mobilitazioni in altre piazze d'Italia, nel resto d'Italia. È normale che no, come devo dire, dobbiamo prendere consapevolezza di un clima che, se non lo sappiamo affrontare, diventerà difficile poi riuscirlo ad inquadrare in un contesto di conflitto sociale, di classe. In un contesto in cui, come devo dire, anche gli scenari politici si stanno modificando, anche a seguito di queste elezioni che ricordiamo, elezione che ha visto la principale forza essere l'astensionismo, e così come anche il prefigurarsi di nuove coalizioni politiche, anche le vicende giudiziarie che stanno colpendo la nostra città, ma anche quella di Palermo. Ci debbono porre delle domande, cioè perché il metodo, la tempistica giunge strano, e poiché in questa nostra nazione nulla giunge a caso, è bene ricordare che bene ricordare anche il ritorno di Silvio Berlusconi, che è stato, come devo dire, la rigenerazione politica di Berlusconi, che tende a determinare un centrodestra moderato, il ruolo di Calenda, il ruolo di Renzi, che a questi due individui, Renzi e Calenda, il centrodestra ci sta facendo una corte sfegatata, così come anche all'interno del PD, ancora a questi due individui, specialmente allo sciocco, ma non tanto sciocco Renzi, non è che la domanda che ci pone sempre l'Eicido, anche se sbagliamo, però qualche domanda rispetto ad alcune tematiche strane bisogna cominciarla a porre. Non è che in Italia si ritorna al vecchio concetto che in nome di Draghi si determina la bicamerale sotto l'egida di Draghi, come la vecchia bicamerale tra D'Alema e Berlusconi ora sarà tra Letta e non so chi, dalla Nuova Democrazia Cristiana che cercano di riprendere e di riproporre. Non è che andremo incontro a una nuova bicamerale. Ricordiamo che in alcuni scenari ipotizzati in quel contesto della bicamerale tra D'Alema e Berlusconi c'era anche la divisione della nostra nazione in tre macro aree, il sud, il centro nord-ovest e il nord-est, che è da essere suddivisa tra il centro-sinistra, la Lega e Forza Italia nel sud. È chiaro che può essere fanta politica, ma ricordiamo che in Italia ciò che è, magari la realtà supera anche la fantasia. Se poi teniamo conto che in ballo ci sono i recovery fund, che sono miliardi che pioveranno, che spetterà ai comuni gestirli, allora ecco che all'interno di tutta una serie di apparati, da quello criminale, da quello industriale, da quello affaristico, da quello anche quindi delle forze occulte, dovremmo aspettarci di tutto e di più. Cominciamo perché anche questo cappelletto, cappellone, cappelluccio che ho fatto è anche perché della necessità, e perché anche queste vicende che hanno colpito la nostra città impongono il ritorno del protagonismo del conflitto sociale a partire dal locale. E quindi a partire anche dalla gestione dei recovery fund, e quindi ciò ci collega alla manifestazione contro il G20, contro Draghi, e diciamo con l'augurio che si possa ripigliare quel movimento che diciamo come stop biocidio, che non solo per la grande manifestazione, e che diciamo il coinvolgimento e vedemmo la partecipazione di più di 150.000 persone, e anche quello che stava determinando a livello locale e territoriale. Poi è arrivato un lockdown, è arrivata questa sfaccimi pandemia, e ha interrotto diciamo ciò che si stava determinando diciamo, a livello nazionale. Ora mettiamo un altro poco di musica. Sulla questione della manifestazione contro il G20. È chiaro che non possiamo che non parlare di un tristissimo e drammatico dato, cioè dall'inizio dell'anno fino a fine agosto, e sono le stragi e la mattanza sul lavoro. Parliamo dall'inizio dell'anno fino a fine agosto. Sono le morti sul lavoro sono state 772, ma da agosto ad ottobre, a questo fine mese, c'è stato un incremento di morti, di 3 morti al giorno, diciamo, il triste elenco, abbiamo superato gli 800 morti sul lavoro in nome dello sviluppo. Ed è chiaro che parlare del C20 non possiamo non parlare di questa tematica qua. Infatti, questa deve essere anche una priorità a partire dal locale, che poniamo i problemi della mortalità sui posti di lavoro. Le tematiche del corteo, diciamo di sabato prossimo, chiaro che devono essere tesi a rilanciare una unificante strategia politica, proprio per determinare un reale movimento politico di opposizione che è in grado di ridurre i danni derivanti dall'accelerazione dei tempi dello sviluppo del capitalismo, a cui, bene ricordare, ha dato una grande mano la pandemia da Covid, e sta dando una grande mano la pandemia da Covid-19. E quindi è normale che noi diciamo che la mattanza sui posti di lavoro è proprio il frutto dei tempi dello sviluppo. È chiaro che i progetti capitalistici, diciamo, legati allo sviluppo, è chiaro che prevedono privatizzazioni selvagge, con le conseguenze di sconvolgimenti selvaggi della cosa pubblica, la sanità, la pubblica amministrazione, così come anche le vicende internazionali. E queste cose complessivamente è chiaro che ci pongono dei seri timori, perché, come devo dire, specialmente perché non sappiamo che scenari ci attendono. È chiaro che una cosa siamo consapevoli, che metteranno a dura prova l'umanizzazione della vita e della geopolitica sia nazionale che internazionale. Qua ogni giorno, diciamo, spirano venti di guerra e di confronti macisti e militari. È chiaro che poi essere contro il C20 e quindi essere contro il governo Draghi, contro Draghi, ciò che diciamo, significa essere contro le grandi opere. Opporsi a tutto ciò che ci sta dietro la questione energetica, così come le modifiche dei rapporti e dei sistemi lavorativi, compresa la scomparsa dei contratti nazionali del lavoro, quelli dei diritti sindacali, la privatizzazione della sanità e della pubblica amministrazione. Questo, diciamo, rappresenta il filo conduttore dei programmi di restaurazione capitalista, che debbono attenersi ai dettami del capitalismo industriale e finanziario, sia europeo che internazionale. E ciò ne tutto questo tipo di, come devo dire, dettami, forme di restaurazione necessitano della militarizzazione e l'uso della forza, che dovranno garantire in tempi rapidi l'applicazione e la messa in atto dei vari progetti previsti nel Recovery Fund, nel PNRR, e quindi in tutti gli ambiti delle attività economiche, finanziarie e produttive. È chiaro, è bene sempre ricordarlo, abbiamo sempre detto, che il ruolo di Draghi e dell'attuale governo, ricordiamoci, che sta accelerando questa restaurazione, si è insediato a seguito di questo golpe che noi abbiamo sempre definito l'amatriciana di Renzi, che sta scandendo celermente i tempi dell'utilizzo dei recovery fund da finalizzare in progetti, come devo dire, che diciamo, questi tempi di realizzazione sono contrassegnati dal binomio transizione e semplificazione, proprio per velocizzare le opere del recovery plan. Allora, Non a caso, per accelerare questa restaurazione, la terminologia semplificazione, che è in pratica, non l'abbiamo definita la madre di tutte le riforme, perché semplificare significa che semplificare significa non essere disturbate. Per cui è chiaro che, per non essere disturbate nei piani di ristrutturazione, è chiaro che non solo ci sarà l'uso della militarizzazione, ma il problema, se noi teniamo conto che la semplificazione, compresa anche la questione della togliere i limiti del subappalto, che poi non è altro che la continuazione del decreto sblocca cantieri, questa di renziana concezione, è chiaro che, così come anche tutta una serie di altre forme e progetti. Allora, noi sappiamo che la mortalità sui posti di lavoro non giunge a caso, ma proprio per la questione dello sviluppo, dei tempi dello sviluppo, noi si hanno delle ricadute devastanti sulla qualità del lavoro e sui tempi. E qua è la motivazione dell'imbennato, dell'ulteriore imbennato dei numeri di morte sul lavoro, così come per la devastazione ambientale e le varie regalie alle varie mafie politiche e forze politiche corrotte. È chiaro che bisogna sempre stare attenti, noi abbiamo già detto più volte, però ripetono, non fa male, il binomio transizione-semplificazione, che sono accompagnate da terminologie immaginifiche come la modernità, lo sviluppo, il decisionismo, è chiaro che questo binomio, accompagnato da queste terminologie immaginifiche, ci accompagneranno per tutto il tempo necessario alla normalizzazione, alla messa in atto dei vari progetti legati alle grandi opere e all'energia. Ed è chiaro che parlare di G20 non possiamo non parlare di Cingolani, il ministro della transizione energetica, e che non l'abbiamo definito il dottor Stranamore dal film di Peter Sellers. Mi accendo una sigaretta. Allora, che lui usa spesso la terminologia della transizione, del cambiamento, cioè transizione significa passaggio da una situazione ad un'altra, sia in senso statico come condizione intermedia definita, che in senso dinamico, in quanto implichi l'idea di un'evoluzione in atto. Allora, questa è una cosa molto ma molto delicata, perché la transizione è la velocità, è la velocità dei tempi in cui essa deve avvenire. Ecco per cui i tempi e la velocità dei tempi in cui queste trasformazioni e progetti debbono avvenire, che necessitano a loro volta di una semplificazione, che in pratica significa questa transizione. Questo passaggio, questa trasformazione, transizione, quindi velocizzare la transizione, necessita della semplificazione, che tradotto significa nessun intoppo, nessun problema, nessun disturbo, nessuna opposizione. E quindi, ecco perché da tutti e di più l'uomo della provvidenza, come definito Draghi, è ben visto da tutti, insomma, da Landini addirittura gli voleva stendere il tappeto rosso, fanno a gara che è più draghiano dell'altro, e sta ponendo il concetto dell'accelerazione dei recovery fund anche nel sud, nei riguardi del sud, sempre in nome dello sviluppo e della modernità, viene riproposta la questione meridionale come un'area geopolitica da conquistare a mo' colonialista. Le varie TAV, che andranno ulteriormente di sconquassare gli assetti, diciamo, gli assetti ambientali della nostra area, il TAP per la questione dell'energetica. E diciamo così, sì, si parla sempre di questo ponte sullo stretto di Messina, però come devo dire. Questi sono per legittimare anche gli allargamenti alle reti autostradali, i depositi e le scorie nucleari, perché non dimentichiamo che la questione nucleare nel piano Cingolani, nel piano energetico, comincia ad essere sempre di più un qualche cosa da attuare, in tempi che, diciamo, fra poco diventeranno tempi sempre più rapidi. E diciamo, questo diciamo, ecco perché, come devo dire, nel nostro sud, nel nostro meridione, noi avremo ulteriore degrado, scempio ambientale e quindi militarizzazione del territorio. Ed è chiaro che, come devo dire, per la questione meridionale sta solo a noi determinare i tempi della politica con ipotesi progettuali, prima che siano altri a normalizzare la precarietà come scansione del nostro tempo, sia attuale che futuro, il nostro tempo umano, economico e ambientale, con tutte le grandi incertezze per il futuro per quanto concernono le relazioni umane ed umane e il rapporto umano-ambiente. Ed è chiaro che per ciò che riguarda la nostra affinità ideologica e culturale, la necessità di riproporre il protagonismo della rete antagonista, rimettendo in rete le decine di realtà individuali e collettive che sono sparse nel meridione, ecco, ripartendo dai bisogni e dalle necessità e dal senso di affinità ed appartenenza di un territorio quale quello meridionale, alla luce, diciamo, degli scenari drammaticamente nuovi determinati dalla pandemia. È, diciamo, un protagonismo politico della rete antagonista meridionale che deve rappresentare una delle ipotesi realmente in grado di interpretare i bisogni reali delle categorie umano-sociale che, tra l'altro, sono riemerse drammaticamente in tutte le varie fasi della pandemia. Ed è, diciamo, come dire, noi abbiamo anche un ruolo, quello di cominciare a contribuire a reagire alla desertificazione politica a sinistra, insomma, ecco perché. Diciamo, è importante riproporre localmente forme di ricomposizione politica e di opposizione sociale, proprio a partire dall'utilizzo dei fondi dei recovery fund da destinare, ecco, a lavori di utilità pubblica, ecco, compatibile, non per le grandi opere, gli armamenti, tantomeno al nucleare civile. E nello stesso tempo bisogna avere diciamo, l'agire politico locale in un contesto anche globale, deve porre una critica radicale alle tematiche strutturali che stanno dietro le politiche colonialiste e privatistiche. È chiaro che molti compagni che sentono queste cose è come un ripetere stessi concetti e via dicendo, ma la realtà è questa e non si scappa. Ecco, anche dalla riunione che abbiamo avuto ieri con di varie realtà e di componenti e anche di individualità in preparazione dello sciopero della manifestazione del 20, ecco, usciva il bisogno e la necessità di riproporre localmente reti e momenti di ricomposizione politica per rilanciare i conflitti sociali nella nostra città, così come in tutte le realtà locali. Thank you. lui è Lucan. Cari compagni, ecco questo pezzo musicale e ambientale, anche perché, come devo dire, ci fa immaginare un mare, tramonti, boschi e compagnia varia. È chiaro che ecco un motivo che diciamo. Ecco perché prima parlavamo anche di magari se riuscissimo a determinare ciò che diciamo ponemmo a quella grandissima manifestazione Stop Biocidio, se riuscissimo a rideterminare proprio quel clima politico di ricomposizione. Vediamo che, come dire, la questione, non si vedono perché è importante la questione di lottare localmente per i recovery fund affinché non siano diciamo, destinati al cemento, a grandi opere inutili, eccetera, eccetera. Ma perché devono essere, dobbiamo fare la lotta, che vengono utilizzati per diciamo, lavori di utilità pubblica ed ecocompatibili, così come anche legata alla questione della difesa del verde, sia urbano, ma principalmente delle colline, delle foreste, delle montagne. E vediamo che in questo contesto, in questi finanziamenti della riforma Draghi, sono molto, ma molto residui i fondi destinati alla riforestazione, alla tutela, alla difesa, diciamo, alla decementificazione delle aste fluviali, al ritorno a un equilibrio tra, come devo dire, i fiumi, consolidare diciamo, la compattezza delle colline, quindi riforestare, tutelare, manutentare le montagne, le colline, insomma, la questione dei fiumi è importante, perché basta, ecco, un poco di pioggia che diciamo, si determinano alluvioni, devastazioni, distruzioni. E così come anche la questione, un'altra cosa importante è quella della rinaturazione delle aree dei fiumi, dei fiumi sia grandi che piccoli, insomma. Così come anche il problema della tutela della biodiversità. Ed è chiaro che per dire sulla questione della biodiversità diventa importante, anche perché è legata prettamente anche a una questione diciamo, della sanità, insomma. Quando noi parliamo, che sono urgenti e necessari lavori di forestazione e di riboschimento, sono cose fondamentali per impedire, diciamo così, come la manutenzione e il controllo, per impedire gli incendi che abbiamo visto l'80 per, specialmente durante il periodo estivo, che la maggioranza di origine dolosa, insomma, delinquenziale. E allora ecco perché è importante partire da queste forme, insomma, che tra l'altro potrebbero rappresentare una delle grandi opere a cui legare non solo la questione occupazionale, ma anche la questione della salute, insomma. Perché, come devo dire, la difesa anche diciamo, delle biodiversità diventa fondamentale, insomma. Così come ecco, il legame tra biodiversità e pandemia sono cose importanti, e che non, appunto abbiamo detto non è solo una questione ambientale, ma anche sanitaria. Infatti, non solo sono sono anche vari studi che approfondiscono il legame tra la perdita di biodiversità e il rischio di esposizione a patologie zoonotiche, ossia che derivano dal contatto tra uomo e animali, insomma. Non peraltro ricordiamo che non solo gli studi, ma sono cose di fatto, ricordiamo l'origine della SARS, cioè l'influenza aviaria, della MERS, Ebola, SARS-CoV-2, e altre ancora sono tutte zoonose malattie, cioè presenti negli animali, che hanno fatto il salto di specie verso l'uomo, e questo è quello che capiterà e sta capitando già nella foresta amazzonica, che il fascista Bolsonaro, fascista, razzista, omofobo, quelli che ne vogliamo, più aggettivi riusciamo a trovare, aggiungere a questo delinquente, è meglio è, insomma, non ci sbaglieremo mai. Ed è normale che, non solo hanno distrutto almeno il 60%, almeno, tranne se in questo periodo non è aumentato, la foresta amazzonica, che ricordiamo non solo il nostro polmone verde, ma il problema è che anche l'eccidio di tribù, i guardiani della nostra salute, eccidio dai squadroni della morte, delle varie lobby, delle pietre preziose, del legno, del cemento, e tante altre lobby che sono presenti da quelle parti. È chiaro che è là per dire il fenomeno della antropizzazione di animali, che non sappiamo gli effetti. È chiaro che difendere la biodiversità, difendere queste forme, significa, come devo dire, limitare e ridurre i danni di nuove pandemie. È chiaro che tutto ciò, il declino delle diversità e il PNRR, non è che questo declino trovi rifugio nei piani del PNRR in Italia. E l'abbiamo detto prima, insomma, qua si parla soltanto di grandi opere, l'uso della tecnologia che non solo servirà per controllare, ma stabilirà ritmi e metodi di lavoro, così come anche sostituirà come la telemedicina, che non andrà altro che a contribuire alla privatizzazione della sanità pubblica e alla ulteriore, sminuire della sanità territoriale. Ecco perché, sta questione del corteo di sabato 30 ottobre, unito a quello che abbiamo detto anche prima, la capacità che dobbiamo avere di avvocare a noi tutte quelle varie umanità, da quell'umanità operaia dei grandi centri di produzione e di distribuzione, ai lavoratori dello spettacolo, ai precari, ai disoccupati, alle mamme, ai bambini, perché dobbiamo cominciare a porre già dal nostro locale esempi di che modello sociale noi vogliamo costruire. È bene che, compagni, dobbiamo tener conto di una cosa: la pandemia ha sconvolto varie situazioni, non esistono più quelle oppure esistono, resistono quelle categorie storiche a cui noi ci siamo sempre attenuti teoricamente, culturalmente e come memoria, però noi vediamo che accanto a quelle categorie storiche che risultano che possono essere anche di carattere residuali, noi dobbiamo cercare di comprendere e interpretare le trasformazioni umane e sociali che, diciamo, stanno mettendo nel mercato della nel mondo della conflittualità sociale tutta una serie di umanità, l'abbiamo detto prima, insomma, e man mano questo variegato mondo che, diciamo, è incompatibile con i tempi dello sviluppo. Prima siamo in grado di traghettarli nello scontro di classe, nelle conflittualità sociali, e meglio è, non solo per le tenute democratiche, ma anche per, come devo dire, evitare che i drammi sociali, la rabbia sociale possa essere gestita da reti politico-militare che, diciamo, con tutte le complicità storiche che hanno, possano, come i fascisti, questa destra sociale che tenda a diventare egemone con la forza, diciamo, momenti di umanità varia. Ed ecco perché è importante il concetto di riappropriarsi le piazze localmente, cioè l'abbiamo fatto durante il lockdown, l'abbiamo fatto anche nei momenti di libertà dal lockdown, a maggior ragione le dobbiamo riprendere a fare anche, a maggior ragione dobbiamo riprendere a fare, diciamo, da ecco, anche dal 30 ottobre in poi, post corteo, sperando che abbia una buona riuscita. È chiaro che, per dire, fino ad ora anche il tragitto del corteo, diciamo, si vuole impedire al corteo di arrivare all'Eur. Che dire, compagni e compagne, ma ci avviamo pure alla conclusione. La situazione è abbastanza delicata. Nell'ambito dei compagni, nell'area, nell'umanità, nella nostra umanità, non mancavano soltanto divisioni. E non mancavano questioni, vicende elettorali a ridurre e depotenziare il protagonismo politico, tutto ciò che è successo, anche ciò che riguarda quelle che le vicende che sono scatenate all'assalto alla CGIL. E poi vedere come le organizzazioni sindacali hanno colto l'occasione per vedere di ricompattarsi in funzione di Draghi. E allora, ecco, abbiamo la necessità, cari compagni, ora ci vorrebbero ore e ore di dibattito e di discussione, magari, e questo lo faremo anche nelle prossime trasmissioni. Però, ecco, c'è la necessità, cari compagni, che dagli errori si prenda finalmente consapevolezza degli errori che hanno portato, insomma, a una desertificazione a sinistra. E il ruolo, ecco, degli scenari futuri non ci possono, al di là che possiamo intuire ma non comprendere e conoscere realmente, però, ecco, il nostro intuito non c'è mai, non abbiamo mai sbagliato. È chiaro che non potremmo dormire sogni tranquilli, ed è normale che, diciamo, localmente si possano, prima di tutto, si esca dalla virtualità per ritornare nella materialità del conflitto sociale, e nello stesso tempo far sì che strumenti, spazi sociali, ecco, come la radio, come i centri sociali, come altri luoghi, possano diventare forme locali di ricomposizione anche, come devo dire, nella stessa città, di punti di riferimento di un'organizzazione reale ricompositiva. Cari compagni, che dire, alla prossima, prepariamoci per la giornata di sabato 30 contro i potenti della terra. Ciao a tutte e a tutte le compagne che seguono Radio Asilo.